A tempo di sport di Gigi Garanzini. Nelle due ultime stagioni la fuga dell'Inter era partita alla 12ª giornata, stavolta con un turno di anticipo, ma certo un po' di numeri aiutano a capire che cammino stia facendo quest'anno la capolista. Intanto è il massimo vantaggio che si sia mai registrato dopo 11 giornate con i campionati da 3 punti. Il record precedente era di 6, adesso come sapete l'Inter ha 7 punti su Juventus e Sampdoria, 6 punti risaliva al campionato 2000-2001 con la Roma a 28 e Juventus Atalanta a 22, o al campionato 2004-2005 Juventus 28 Milan 22. L'Inter non partiva così forte da 21 anni in campionato, cioè dall'88-89, il campionato dei record di Giovanni Trapattoni. Il miglior attacco della Serie A con 28 gol, che sono davvero tanti in 11 partite. Mentre, e questo è un altro dato molto curioso, non ha la miglior difesa, perché la miglior difesa è quella del Bari. Pensate, il Bari neopromosso ha incassato soltanto 7 gol in 11 partite, a parte il fatto che nel caso di ieri al Bari mancano un paio di punti, sia per aver sbagliato un rigore all'ultimo minuto, sia per essersene visto annullare ingiustamente uno in pieno recupero. Ora, tutto questo è abbastanza sorprendente se solo ci si riporta qualche giorno fa. Parlo della testa della classifica, perché quella grande vittoria della Juve mercoledì sera con la Sampdoria e quella grande rimonta incompiuta del Palermo giovedì sera a San Siro insomma avevano creato suggestioni diverse. Poi è arrivato un fine settimana in cui l'Inter ha sfruttato ieri il suo turno facile di Livorno con il minimo sforzo, e la Juventus ha imitato l'Inter del secondo tempo col Palermo, con la differenza che i gol di vantaggio dell'Inter erano 4, quelli della Juve solo 2, così il Napoli ha centrato una vittoria, un'impresa che gli mancava dalla bellezza di 21 anni sul campo della Juventus. Le reazioni e i commenti in attesa dei vostri interventi in diretta, come ogni lunedì all'800 24 00 24. Alcuni messaggi sono già arrivati nel frattempo. Vi dicevo le reazioni. Allora comincerei da quella di Amauri, che è stato anche espulso, come sapete, nel finale di partita di sabato, e nonostante la perorazione in suo favore del neopresidente Blanc, sarà certamente squalificato, sarà automaticamente squalificato per la partita che la Juventus giocherà sabato sera in anticipo alle 20:45 a Bergamo sul campo dell'Atalanta. Mauri. Abbiamo perso una partita dove stavamo vincendo e sicuramente ecco perché magari ci brucio un po' di più per questo. Non ho calciato nessuno, sono stato espulso ingiustamente, tutto qua. Se io non ho fatto niente, essere squalificato e stare fuori un turno per me non va bene. Non si può sbagliare, però il campionato finisce a maggio, mica finito ieri. La Juventus doveva partire a mezzogiorno per Tel Aviv, per la partita di Champions di domani sera con il Maccabi, e invece una manifestazione dei lavoratori di alcune compagnie che gestiscono i servizi a terra a Caselle ha ritardato questo volo, che dovrebbe essere partito nel frattempo, ma con almeno un paio d'ore di ritardo. Ci spostiamo sul fronte Inter e sentiamo un intervento del presidente di Moratti. Una bella domenica, no, è andata bene, abbiamo giocato bene, mi sembra con la calma necessaria, la prudenza giusta. Mi sembra che abbiano potuto riposarsi anche un po' di giocatori e quindi potrebbe essere anche psicologicamente adatto per poi giocare a Kiev. E speriamo che possano esprimersi nella stessa maniera in Champions come stanno facendo i campionati. Beh, sono tanti punti, la fuga scudetto, nel senso che tentando di arrivare a vincere lo scudetto è una buona cosa avere già un po' di punti, so che poi dopo il campionato ti mette in condizione di poter correre ancora molti rischi, però è una buona cosa. Credo che Santon sia e rimanga uno dei giocatori su cui l'Inter punta per il futuro e Mourinho sta lavorando per forgiarlo. Quindi va bene per tutte e due il fatto che ci sia questo tipo di rapporto, perché è un rapporto di stima. Anche se l'ultimo intervento di Mourinho in materia ieri pomeriggio è stato dinanzi alle telecamere, Santon chi? Col punto interrogativo incorporato. Alberto scrive: buon lunedì, si inizia a capire perché Dunga non tenga in considerazione Diego. Temo che il buon affare l'abbia fatto soltanto il Werder. È un timore che si sta cominciando a diffondere. Restiamo all'Inter, Mourinho. Abbiamo rischiato un po' per questo turnover, per un turnover consapevoli dopo dell'opzione che avevamo in panchina per poter cambiare la squadra nel momento per noi giusto, contro un Livorno pieno di morale, di aggressività nel buono, nel senso positivo della parola. Molto ben organizzato, in primo tempo meglio di noi, però dopo il secondo tempo siamo entrati con un modo diverso di giocare, abbiamo avuto la felicità di fare quel gol e dopo durante il secondo tempo abbiamo gestito la partita molto molto molto bene, con un grandissimo possesso palla, con tranquillità, e dopo con il secondo gol abbiamo finito veramente la partita. Si gioca regolarmente dopodomani a Kiev la partita tra Dinamo Kiev e Inter di Coppa Campioni, lo ha confermato all'ANSA un portavoce della Dinamo. Nonostante l'epidemia di nuova influenza, la partita tra Dinamo e Inter si disputerà come previsto mercoledì sera a partire dalle 21:45 locali, ha affermato questo portavoce. L'UEFA ha designato il francese Bertrand Layec come arbitro di questa partita, ripeto, di Dinamo Kiev-Inter. Mentre toccherà a Mehuto Gonzalez, l'arbitro, il celebre arbitro spagnolo, la direzione di Fiorentina De Breseni, l'altra partita in programma la sera di mercoledì. C'è già un ascoltatore in linea, allora aspettiamo un attimo con le altre voci, diamo la precedenza a Simone che ha già chiamato da Venezia. Buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Senta, io volevo parlare della Roma. Sì. E volevo chiederle, ma a questo punto non è il caso di farci qualche domanda sui meriti o demeriti in questo caso dei sanitari, visti gli infortuni dell'anno scorso, di quest'anno? Anche ieri, scherzando tra virgolette, si è rivolto alla panchina il tecnico della Roma dicendo ne abbiamo uno sano. Cioè, a me sembra un po' assurdo il discorso. Seconda cosa velocissima, ieri ho sentito complotti da parte della tifoseria per i fischi all'Olimpico, anche questa secondo me è una sciocchezza. Se la squadra rendesse come effettivamente tutti si aspettassero, i fischi non si sentirebbero allo stadio. Grazie, buongiorno. Beh, certo, questo anche Monsieur della Palisse sarebbe discretamente d'accordo con lei, ma gli staff sanitari sono un po' tutti, mi pare, in questo momento in subbuglio. Non è che la Juventus se la passino molto meglio. È di ieri l'inizio di una querela tra Mourinho e il medico dell'Inter, il professor Combi, a immagine e somiglianza di quanto accadeva con Mancini, che nel frattempo, come sapete, per la modica somma di 8-11 milioni di euro, non si è ben capito, ha risolto consensualmente il suo rapporto con l'Inter. È un periodo in cui gli infortuni ce ne tanti, forse troppi, e però questo io credo che sia un problema che riguarda poco gli staff sanitari e, come si ripete ormai sino alla noia, riguarda altri aspetti che sono i calendari, che sono l'eccessiva concentrazione di partite col livello di stress e tutto il resto. L'Inter va un altro campionato, però noi siamo secondi. Fischi, mugugni, soprattutto nei miei confronti, sono venuto a parlare per dire che un pochettino mi hanno preso di mira dall'inizio alla fine. Questo è un messaggio che lancio. Io non ho problemi, l'ho fatto a Roma, l'ho fatto a Madrid, posso anche farlo qua, se a qualcuno non sta bene faccio valigia e vado a casa. Poi naturalmente, no, lui non ha minimamente fatto marcia indietro, è Marotta che dovendosela ogni tanto, con uno come Cassano dovendosela ogni tanto giocare da pompiere, poi è intervenuto già ieri e lo ha ribadito stamane che in realtà non c'è nulla di serio. Comunque resta questa uscita abbastanza a piede alto di Cassano nei confronti della sua tifoseria. Tommaso ha chiamato da Foggia, buongiorno. Sì, ecco, prendo spunto a mio avviso ha sbagliato comunque Cassano a fare questa uscita a piede alto, però volevo parlare un attimo della diatriba con Lippi. Ecco, io penso che l'unico motivo che possa indurre Lippi a non convocare Cassano è il fatto di essere, cioè di voler fare lui un po' la prima donna. Ecco, penso che il ruolo di Cassano offuschi un po' questa sua immagine di questo trainer vincente. Ecco, e al tempo stesso fa passare all'opinione pubblica la volontà che la squadra non volerlo. Insomma, un tecnico che vince un campionato del mondo e poi rinuncia alla nazionale per essere richiamato, io non avrei senz'altro richiamato. Ecco. Beh, questo è un altro paio di maniche, che mi pare che non c'entri con Cassano. Questo è un problema, se vogliamo, addirittura etico, e su questo sono completamente d'accordo con lei. Quello di Cassano è un problema di scelte. La mia opinione, dopo aver visto il primo tempo di Balotelli contro il Palermo, nel bene e nel male, cioè che era quasi tutto bene e con quel piccolo male, piccolo rispetto ad altri episodi che hanno visto Barotelli protagonista, che è stato rappresentato da quel capriccio sul calcio di rigore affidato ad Eto'o e con Zanetti che lo tira via, eccetera. Insomma, per tornare al punto, io penso che se Lippi decide, dopo aver visto Balotelli col Palermo, se Lippi dovesse decidere di fare, oltre che il commissario tecnico, anche un pochino l'assistente sociale, io sinceramente partirei da Balotelli, prima ancora che da Cassano, ma queste evidentemente sono opinioni. Cacà si aspetta una bella accoglienza dai tifosi del Milan, per quello che c'è stato in questi anni. Mi aspetto una bella accoglienza, ha detto il brasiliano, arrivando stamane alla Malpensa con la comitiva del Real. Sarà una partita difficile, il Real non è in crisi, e a Borriello, che avrebbe detto che il brasiliano è calato di rendimento negli ultimi anni, non ho letto quel che ha detto Marco, ma sono sicuro che scherzava, è un amico e mi conosce bene. Se lo conosce bene, secondo me, invece Borriello ha detto la verità, perché anch'io ho l'impressione che Kakà stia seguendo, ma non adesso soltanto, abbia infilato una lieve parabola discendente, diciamo lieve per il momento. Tocca a Vincenzo dalla provincia di Lucca, buongiorno. Gigi, buongiorno a lei. Dica. E complimenti per la trasmissione. Mm. Senta, io le sarei grato se risolvesse un dubbio che mi assilla. In relazione al signor Mourinho, io non ho ancora capito se è più furbo che intelligente o più intelligente che furbo. Mi scusi per il gioco di parole. Secondo me tutte e due le cose. Per me lei invece è l'allenatore più sopravvalutato al mondo e anche super pagato, tra le altre cose. Beh, più pagato è un dato oggettivo. Se pensa che l'allenatore israeliano che ha preso il Chelsea quando lui è stato mandato in pratica via è arrivato in finale di Coppa dei Campioni, persa per uno scivolone di Terry sul calcio di rigore, hanno perso l'ultima domenica il campionato senza Mourinho, aveva una grandissima squadra, perciò insomma voglio dire, questo, non è che abbia No, questo è vero, però quella era una squadra che era stata impostata da Mourinho, che era stata voluta e costruita da Mourinho e che poi insomma a causa di qualche turbativa interna aveva ripudiato Mourinho, ma insomma il telaio, l'impostazione era quella. Io continuo a pensare cioè se lei mi dice che Mourinho è probabilmente un po' sopravvalutato, la seguo, anzi la precedo, credo di averla anche preceduta su questo percorso. Se lei mi dice che è l'allenatore più sopravvalutato al mondo, allora il gusto della butade è sempre il benvenuto, ma insomma entro certi limiti a parer mio. Angelo ha chiamato da Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo parlare giusto un riferimento al Bari Calcio, visto che in questo momento se ne può parlare anche con sufficiente dignità, insomma, per quello che sta facendo in questo campionato. Anche di più. Devo dire che, visto che anche il precedente radioascoltatore parlava di Mourinho come personaggio sopravvalutato, sicuramente non lo è Ventura, oggi magari lo si sta riscoprendo, però è veramente un allenatore che sta dando un senso al ruolo dell'allenatore all'interno di un gruppo. La squadra è sicuramente un'ottima squadra, ma non so se sarebbe stato gestita da altro allenatore, veramente più che un tecnico attento, anche un ottimo pompiere anche nei momenti difficili e complessi, e devo dire che ieri ha dato una dimostrazione di stile quando, nel commentare a caldo una partita nella quale sicuramente aveva da recriminare molto, è riuscito con un sorriso, un mezzo ghigno e tutto verissimo. Lì a risolvere il tutto. Verissimo, ieri intanto Ventura sta facendo un grande lavoro ed è testimoniato dalla classifica, dai numeri, che pure forse non rendono proprio a punti, ma al di là di ieri non rendono nemmeno tutto il merito che il Bari ha accumulato in queste prime 11 giornate. Non dimenticherei, è il discorso di Grant e di Mourinho di prima, non dimenticherei che questa squadra era stata plasmata e portata in Serie A con un cammino strepitoso da Antonio Conte, però spesso e volentieri quando si cambia manico possono esserci dei contraccolpi in positivo o in negativo. Insomma, mi pare che Ventura da quel che Conte aveva costruito, su quel che Conte ha costruito abbia innestato miglioramenti ulteriori. Certamente ci ha messo la sua signorilità, che ieri si è espressa davvero a livelli molto alti, perché non era facile. È vero che lui è genovese, è vero che lui è sampdoriano, è vero che se quel finale di partita fosse stato magari col Genoa, essendo lui un doriano, magari avrebbe avuto un pochino più di insomma, gli sarebbe venuto meno congeniale quel sorriso ironico e così stemperato e signorile. Però giù il cappello davvero, perché con quel che si vede in giro, Ventura ieri ha dato una vera lezione di stile. Da Milano ha chiamato Maurizio, buongiorno. Buongiorno, io sono un assiduo frequentatore anche di una trasmissione televisiva che è il David Letterman Show, dove venerdì sera era presente il presidente della Lega di Baseball. Voglio parlare di arbitri, anche se non è mai successo niente questa settimana. Solo per segnalare questo, in America nel baseball monitorano gli arbitri televisivamente da almeno 4-5 anni, hanno constatato che nonostante prima dell'arrivo della Moviola la percentuale di decisioni giuste era del 99%, hanno messo la Moviola, non è che sia cambiato molto. In Italia non siamo chiaramente al 99%, ma perché non siamo al 99%? Perché gli arbitri di calcio purtroppo non hanno mai giocato a calcio. In America, nelle quattro maggiori leghe professionistiche, che sono baseball, hockey, basket e un altro che non mi ricordo più, football americano, sì, gli arbitri devono avere almeno 5 anni di esperienza di gioco a livello college o a livello leghe minore di professionisti. Tutto qui, basta. È indubbiamente un bel cursus honorum, è una bella preparazione professionale. Io ho smesso ormai da anni una campagna che avevo iniziato più di 20 anni fa per provare a concedere uno sbocco professionale in più ai calciatori a fine carriera, e cioè la carriera arbitrale. È ovvio che rispetto agli arbitri che partono in età giovanile dai settori giovanili e dalle partite dei campionati giovanili avrebbero avuto un gap da recuperare da un punto di vista da un punto di vista anagrafico, ma è anche vero che avrebbero avuto e avrebbero tuttora un bagaglio di esperienza altissimo, no? E di credibilità soprattutto, a parer mio. Questa cosa ogni tanto salta fuori, ogni tanto Platini avrebbe anche la tentazione, mi risulta, ma poi è un pochino complessa da attuare. Io la condividerei assolutamente in pieno. Da Monza ha chiamato Franco, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, avevo due domande da sottoporle. La prima è che volevo sapere cosa ne pensava dell'intervista di Cassano, cioè dello sfogo del dopo partita, che io approvo in pieno, perché non si può che un giocatore come Cassano, che ha portato la Sampdoria così lontano, grazie a lui naturalmente, venga contestato perché adesso questo momento di come si dice la Sampdoria, poi questa è la seconda, e volevo sapere come mai, dove aveva fallito Donadoni nel Napoli e dove ha centrato Mazzarri nel Napoli, perché Mazzarri sta andando alla grande, invece Donadoni era partito un po' maluccio. Non glielo so dire sinceramente, perché io penso che c'entrino un po' anche i giocatori del Napoli, nel senso che sicuramente Mazzarri è un allenatore che ha un percorso eccellente sino ad ora, intendiamoci, il suo capolavoro d'aver salvato una regina che partiva non so più se da meno 11 o meno 12 ed averla salvata quell'anno è un'impresa che a pochi allenatori è riuscita, e avrei voluto vedere tanti allenatori di grido celebrati, di quelli da 11 milioni l'anno di euro, centrare un'impresa del genere. Però una metamorfosi di questo genere non può essere spiegata, perché sennò bisognerebbe dire che Donadoni non è davvero capace e che Mazzarri invece è il numero uno di tutti i tempi. Di mezzo ci sono motivazioni, ci sono c'è probabilmente un modo diverso di saper gestire un gruppo, ma ci sono anche i giocatori che quando ci si mettono, ragazzi, a Napoli li chiamano in un certo modo che non posso ripetere certamente ai microfoni. Ha torto Cassano, perché se è vero che in questo momento qualche tifoso sampdoriano si era un pochino montato la testa, direi che fa parte assolutamente del gioco, anzi se è successo soltanto a qualcuno direi che siamo in una situazione favorevole, perché altrove sarebbe successo magari alla totalità del pubblico. Ma il quella minoranza che magari adesso si lascia scappare qualche fischio a Cassano o qualche giocatore alla Samp che si è montato la testa, sono gli stessi che sostenevano Cassano a gola spiegata quando Cassano i primi tempi non la beccava mai e faceva i numeri che sappiamo. Quindi non credo che Cassano avesse il diritto di dire le cose che ha detto, tantomeno usando quei toni. Francesco da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ancora su Cassano, noiosamente, ma... Ma molto noiosamente, perché veramente con tutto quello che di bello e interessante, o di brutto e interessante succede nel campionato, quello che è veramente di insignificante succede, chissà perché, attira come le mosche al miele. Comunque. Solo una chiave di lettura, questo è il motivo per cui io sono contento che Lippi non chiami Cassano in nazionale, perché è un maleducato, punto e basta. Secondo me dove c'è educazione poco può prosperare. No, un maleducato, Francesco, io non sono d'accordo con lei, perché le ripeto, io non so, la penso come lei in merito allo sfogo di ieri, nel senso che è un giudizio negativo, però che sia stato maleducato no, è stato ben più maleducato Lippi in tempi recenti, è stato più maleducato Ferrara, è stato più maleducato Cannavaro, se parliamo di maleducazione, è stato un po' arrogantello, ma insomma quello è Cassano e non credo che lo scopriamo oggi. Maleducato ieri non mi è parso tutto sommato. Da Milano, Diego, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi, signor Garanzini, volevo sfruttare la soluzione cortesia per aprire un argomento che non è legato alla stretta attualità. Ipotizzi per cortesia 10 secondi a pensare se si potesse abolire il fuorigioco limitandola soltanto alla zona delimitata dall'area di rigore. In 10 ore possiamo dedicarci, non 10 secondi, perché questi sono discorsi epocali. Insomma, ci si è pensato ogni tanto in passato, soprattutto l'ultima volta che ci fu una recrudescenza di questa teoria, che per esempio è caldeggiata, o almeno qualche anno fa lo era, dal mio amico Berzot, quindi vede che ci sono anche opinioni autorevoli in materia, che vorrebbero la restrizione del fuorigioco limitata soltanto alle due aree di rigore. Era un dibattito che l'ultima volta andò molto in voga all'inizio degli anni 90, quando non i Sacchiani, ma i derivati dei Sacchiani in Italia, in Europa e nel mondo avevano ridotto il centrocampo a una tonnara, no? in cui le due squadre giocavano in 20 metri e tutto accadeva lì e col fuorigioco alto, il pressing alto, eccetera, non si riusciva a vedere più calcio. Oggi mi sembra che la situazione sia migliorata, ma le ripeto, se ci mettiamo a studiare come potrebbe evolvere il gioco in quel caso, quali sarebbero le contromisure che i tecnici ovviamente prenderebbero su questo, ci mettiamo 10 puntate e non bastano, non 10 secondi. Da Prato, Sandro, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo farle due domande sulla Juventus. Secondo lei i problemi di risultati che ha in questo momento sono attribuibili al tecnico Ferrara, che essendo giovane magari non sa dare carica morale e quindi mi sembra che la squadra giochi con poca grinta rispetto agli anni scorsi, quando c'erano magari allenatori un po' più carismatici, oppure a una campagna acquisti che è andata a prendere dei giocatori che probabilmente erano un po' sopravvalutati? E poi volevo sapere se secondo lei Ferrara è un allenatore di passaggio. Grazie. Ma insomma, non so che ruolo a che ruolo ha pensato Blanc per Lippi il prossimo anno, visto che Lippi tornerà a far parte della famiglia, e quindi insomma, Ferrara potrebbe essere di passaggio a seconda appunto di che mansioni ricoprirà Lippi in questo ritorno annunciato ormai, e mi pare annunciato sia pure non ufficialmente, ma insomma metabolizzato direi dagli stessi protagonisti della Juventus, a cominciare dai giocatori. Il resto è un mix, la Juventus ha gli stessi punti dello scorso anno in questo momento, quindi questo da un lato rivaluta quel povero deficiente di Ranieri, naturalmente sto citando i termini in cui lo scorso anno veniva valutato sia dal più autorevole quotidiano sportivo di Torino che da buona parte della tifoseria opportunamente sopillata dal quotidiano in questione. Agli stessi punti ha comprato un sacco di gente, sembrava che fosse arrivato almeno un messia, e così invece al momento non è. Lei mi domanda se ci sono anche responsabilità di Ferrara, ma è evidente, perché è evidente che ci sono responsabilità da parte di un po' tutti. Toglierei Buffon in un rendimento inferiore alle attese, in particolare l'altra sera mi sembra che la gestione dei cambi e soprattutto quello di Poulsen sia stato ampiamente discutibile. Non è facile mantenere i nervi saldi quando né sul campo né dalla panchina, quando ti vedi slittare il terreno sotto i piedi. Psicologicamente il fatto che la Juventus avesse, o meglio, che il Napoli avesse regalato il secondo gol con quell'assist incredibile di Contini di testa a Giovinco, ha nuociuto alla Juve, perché il 2-0 è venuto, venendo un 2-0 così i giocatori hanno pensato vabbè questi sono andati, e invece il gol del 2-1 ha riaperto completamente tutto. Dopodiché ho letto critiche a tanti, un po' a tutti. Io credo che se c'è un leader difensivo che viene riconosciuto come tale e che è stato ripreso nonostante l'età avanzata come tale e come capitano della nazionale, se il leader difensivo non riesce a dare in quei momenti di difficoltà a portare il suo carisma, credo che qualche riflessione anche questa varrebbe la pena di farla in materia. D'Alessandria ha chiamato Alfredo, buongiorno. Buongiorno Granzini. Volevo farle una domanda, però mi permetta prima un flash su Cassano, solo per dire che sono in minoranza, ma io sono d'accordo con Lippi nel non convocarlo. La domanda è questa: si parla di Mancini al Real Madrid come possibilità. La domanda che le volevo fare consiste nel fatto: non è rischioso per la carriera di Roberto accettare quel tipo di, per come è stato costruito il Real? Grazie. Sì, se uno si mette davanti allo specchio e ragiona e dice io devo andare lì, devo prendere in mano una squadra che è fatta di figurine, queste figurine sono una più piena di pretese dell'altra, insomma, se uno comincia a ragionare seriamente e a pensare ai rischi che questo comporta, sì. Però io credo A, che Mancini sia stato in vita sua, in carriera, intendo dire, una figurina a sua volta, ma di quelle buone anche, di quelle da collezionare. Parlo del Mancini giocatore. E quindi abbia un'idea, o magari una presunzione un'idea, di sapere come prenderli, da che parte prenderli. Uno. Due, quando hai ben finito il tuo discorso davanti allo specchio e dici ma io qui però rischio l'osso del collo, poi guardi un attimo la lettera che ti è arrivata o riascolti la telefonata che hai registrato, e prima di dire di no al Santiago Bernabeu e al fascino che emana, io credo che ci pensi alcune volte e alla fine non ci rinunci. Però la sua riflessione secondo me è fondata. Fedele ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno dottore, io sono a difesa di Mourinho, nel senso che sta lanciando dei giovani, ha cambiato modulo, sta andando benissimo. L'anno scorso i gufi eravamo senza Ibrahimovic, si pensava che arrivassimo quinti, quest'anno siamo primi, e Mourinho va tutto il mio rispetto e il mio amore che ho per Mourinho. La seconda cosa che le volevo dire è un po' più tecnica: non trovo un'allegrezza in questa generale. Questa non era tecnica. Non era tecnica questa è tecnica, cioè non era soltanto fideistica, era tecnica, cioè è indubbio che Mourinho... Però mi dà fastidio quando lo si razzola per il fatto che prende tanti soldi, che in realtà ieri ha messo dentro un giovanissimo, un Cri, che pochi ieri a Livorno, pochi allenatori avrebbero fatto, avrebbero trovato chissà quale altro, invece questo poi per carità... Non c'erano altri, Fedele, detto tra noi non è che avesse tante altre soluzioni, perché gli altri erano indisponibili. E le dirò che con Santone e Balotelli io ho qualche dubbio che il suo lavoro sui giovani sia così formidabile. Però va bene, la seconda cosa? Fenomeni. Il problema è, secondo lei non trovo ultimamente un'allegrezza nelle difese in generale? Cioè noi vediamo di quei gol che prendo in seconda categoria, li prendono lì. Sono anni. Difensori che lasciano, ma no, proprio un'allegrezza. Infatti vedi anche i risultati, partite che finiscono 5-4, 4-3, 5-1. C'è un'allegrezza difensiva che probabilmente mi chiedo veramente perché Lippi tiene ancora Cannavaro. Non c'è altro. La saluto, l'ascolto per radio. No, c'è poco da ascoltare. La squadra difensiva italiana è che tradizionalmente era la migliore al mondo, comunque una assolutamente all'avanguardia, è crollata negli ultimi anni. E anche di questo ne abbiamo parlato a Iosa, ne abbiamo parlato con Fior di Tecnici, ne abbiamo parlato con Berzò, ne abbiamo parlato con Zoff, ne abbiamo parlato con quelli ai cui tempi appunto difendere significava una cosa che oggi non significa più. Poi è arrivata la zona, poi insomma si è cambiato un po' il modo di giocare, ma si è dimenticato anche come si difende. Su questo direi sono poche discussioni, e la sua osservazione è esatta, direi, se mi permette, non è proprio inedita. Sembra ieri. 2 novembre 1983, ritorno dei sedicesimi di Coppa UEFA. Sul neutro di Bari, l'Inter è chiamata a una grande rimonta, a 18 anni di distanza da quella inflitta al Liverpool in Coppa dei Campioni. Stavolta deve recuperare il 2-0 subito dal sorprendente Groningen. La missione, per gli uomini di Gigi Radice, si complica, perché nel primo tempo gli olandesi non lasciano spazi. Il risultato viene sbloccato da Collovati al 53esimo, seguito da Altobelli due minuti dopo sul rigore e da Serena. Proprio quando l'obiettivo sembra raggiunto, però, il Groningen costringe di nuovo l'Inter a inseguire, andando in rete con l'attaccante inglese McDonald. Ci pensano Hansi Müller e di nuovo Serena nel finale a fissare il punteggio sul 5-1. Ma il cammino europeo dei nerazzurri si interromperà già agli ottavi di finale contro un sorprendente Austria-Vienna. Questo era un precedente abbastanza dimenticato di una rimonta comunque che all'epoca fece sensazione. Tra l'altro oggi, 2 novembre, è anche il compleanno di Ricky Albertosi, che compie oggi 70 anni, uno dei più grandi portieri della storia del dopoguerra, certamente, ma insomma direi dell'intera storia del calcio italiano. Beppe ha chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo fare un intervento in merito a un problema, una fatta che ho letto sul giornale. Mi sembra che lei sia d'accordo che un gesto polemico di un giocatore in campo può provocare seri danni per l'ordine pubblico, giusto? Non lo so a cosa si riferisce, è giusto? Glielo dico dopo, mi faccio un esempio. Ma che può succedere se un presidente dice ai milioni di tifosi della Juve: non è giusto aver rinunciato ai due ultimi scudetti, non dovete aver fiducia nella giustizia sportiva? No, non ha detto così Blanca, ha usato un'espressione secondo me notevolmente infelice, ma non ha detto questo. Ma la sostanza che si legge è quella. Ma se la sostanza che si legge è quella, perché lei riportandola deve falsare questa sostanza? Mi tolga questa curiosità. No, cioè io l'ho interpretata così. Lei l'ha interpretata così. Ma peccato che c'era poco da interpretare. Quando si legge o si ascolta una frase, in genere una frase così netta come quella che ha detto Blanc, non mi sembra che sia che valga la pena di essere interpretata. La si ascolta e la si condivide o meno. Io non l'ho condivisa per nulla. Mi pare che in tanti non l'abbiano condivisa. A cominciare al Palazzo, mi pare che non condividerla fosse giusto. Detto questo, io non vedrei di non amplificare le conseguenze di una frase indubbiamente, secondo me, infelice, che Blanc nel discorso, essendo quello tra l'altro il discorso di insediamento, si poteva oggettivamente risparmiare. Luciano Spalletti stamane ha partecipato in Federcalcio, nella sala consiglio della Federcalcio, come testimonial di un'azienda, alla presentazione della Fanta Nazionale. È un'iniziativa benefica per la lotta contro la SLA. E tra le altre cose gli hanno domandato se si sentirebbe pronto in un futuro non più lontanissimo, visto che il prossimo anno si dovrebbe riaprire, comunque vada il mondiale, si dovrebbero riaprire le candidature alla panchina azzurra. Gli hanno chiesto se si sentirebbe pronto per la nazionale e la risposta di Spalletti è stata immediata: la nazionale è il sogno di qualsiasi allenatore, mi sentirei pronto, sì, parlo di una nazionale estera, ma parlo anche di questa nazionale, cioè di quella italiana. Dopodiché gli è stato chiesto un'opinione sul momento molto difficile che la Roma sta attraversando, non da un punto di vista tecnico, perché non avrebbe risposto, ma da un punto di vista ambientale. E Spalletti ha detto duramente: bisogna farla finita. Agguati, bombe, minacce, non li vogliamo nella nostra vita, figuriamoci nel calcio. La notizia termina qua. La curiosità che vorrei segnalarvi è per l'appunto che questo questa frase, agguati, bombe, minacce, che Spalletti ha detto a proposito di quanto accade intorno alla Roma, l'ha pronunciato nella sala del Consiglio della Federcalcio, dove non so se erano presenti Abete e magari Petrucci, le persone che, come avete sentito la settimana scorsa, dopo la denuncia di Cappello, come è noto, non riconoscono questo tipo di situazione del calcio italiano, nonostante ce l'abbiano praticamente in casa. Stefano da Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io volevo solo segnalare, visto che lo segnalano su tutti i campi, i gol razzisti fatti sabato nei confronti dei napoletani. Sabato ho giocato Juve-Napoli. Sì. Sì, ma non ho capito cosa è successo. I cori razzisti. Sì, le confronti napoletani hanno preso anche finanche il loro allenatore, perché visto che è napoletano ci troverà. Non lo so che rispetto hanno nel proprio allenatore. Comunque, volevo solo segnalare questa cosa, perché poi sul terzo gol del Napoli è volato di tutto in tribuna. Io non c'era di persona, ma c'è un cugino che abita a Torino e mi ha testimoniato questa cosa, tutto qua. Sì, non è stato né un bel durante partita, anche se non si dice, né è stato un bel dopo partita. C'erano probabilmente dei tifosi napoletani che non ci dovevano essere, a quel che si è capito, perlomeno in certi settori dello stadio. Certamente non il pubblico curvaiolo della curva Scirea, che non mi stancherò mai di dire usurpa purtroppo il nome di uno dei più grandi galantuomini della storia del calcio italiano, in maniera indegna, ovviamente si sono esibiti come è loro simpatica abitudine anche nei confronti dei tifosi napoletani, a prescindere, cioè molto prima degli incidenti che poi sono successi o di intemperanze avversarie eventuali. Sicché, insomma, direi che complessivamente con il Movimento Calcio ci siamo fatti riconoscere anche sabato in occasione di Juventus-Napoli, ma a proposito di quel che si diceva prima, tutte cose che non risultano ovviamente in ambito federale e in ambito di presenze ultra. Leonardo ha chiamato da Siena, buongiorno. Sì, buonasera. Volevo fare un breve intervento sulla mia piccola squadra, il Siena, che vive questo sogno, sono 7 anni che in Serie A, anche se adesso è l'ultimissimo posto. Ieri c'è stato un episodio curioso, diciamo così, almeno. In area di rigore un nostro attaccante, Ghezzal, è stato denudato della maglietta. Sì, è ora, vero. Potrei dire, com'è possibile che un arbitro possa non aver visto, e nemmeno il guardialine, un episodio del genere? Episodio... Poi qualche minuto dopo, altrettanto strano, in cui c'è stato un intervento dubbio sicuramente sul nostro attaccante Maccarone, l'arbitro è arrivato deciso, ha tirato fuori il cartellino rosso per l'espulsione da fallo dell'ultimo uomo del portiere, e poi dopo che 4-5 razziali sono andati dal guardialine a protestare, ha addirittura invertito la punizione, dando una punizione contro la Siena. Volevo sapere dalla sua esperienza se le era capitato di vedere qualcosa del genere. Grazie. Quella della maglietta no, mai, sinceramente mai, e quello è un caso limite. Credo che Pierpaoli, tra l'altro già un fiorentino a Siena, no? Ad arbitrare, vabbè, queste sono cose che vanno superate, è soltanto una curiosità. Però insomma, quello è un episodio che credo Pierpaoli pagherà, perché non è possibile che un giocatore venga spogliato a quella maniera a forza di tirargli la maglietta e non succeda nulla. Quello è calcio di, come ha scritto tutti i commentatori, quello è calcio di rigore e basta. Oppure se il gioco è fermo, non lo so, come minimo sarà ammonizione all'avversario, magari pure di più. Il secondo episodio no, è diverso. Il secondo episodio fa ancora più rumore perché costringe l'arbitro a rimangiarsi una decisione. Però ormai arbitrano in 3, anzi sarebbe meglio arbitrarsi addirittura in 4, col quarto uomo che partecipa di più. E il guardalinea ha corretto una decisione di Pierpaoli che era sbagliata, perché oggettivamente Muslera non aveva commesso fallo all'ultimo uomo. Poi nella confusione totale hanno addirittura dato calcio di punizione alla Lazio per riprendere il gioco, e lì effettivamente significa che erano andati tutti insieme nel pallone. Grazie a tutti per l'attenzione, a Roberto Scaltriti in regia, a Franco Piantanide che ha assistito, Flavio Suardi in redazione. L'appuntamento è come sempre a domani.